3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dell'Incredulo con la sottoscritta, ormai vostra conduttrice in questi ambiti un po' magici e un po' misteriosi, che si porta con sé il povero e incredulo e recalcitrante Giorgio. Buongiorno. Elisa, ma sono recalcitrante per forza, andiamo, ma qui tentate di imbottirmi il cervello con tutte queste panzane e gli alieni e Horus e l'Egitto e le piramidi e se uno si mette sotto vede Orione. Ma insomma, andiamo, siamo nel ventunesimo secolo, l'era dei supercomputer, l'era delle trasmissioni globali, l'era dei grandi database e dei big data e ancora stiamo dietro a queste robe che faceva il sacerdote pesce a Babilonia. Andiamo su, Elisa. Fortuna che noi qui a Radio Big World la scienza la adoriamo. Prima di addormentarci, diamo un bacino a Einstein e uno a Freud, perché ormai siamo qui in questo mondo quantico dove tutto è regolato da leggi matematiche, fisiche e chimiche. Tutta sta roba, il karma, il tikuna, andiamo, ma è roba da bonzi indiani che non mangiano nulla, si sniffano due fiori e poi vanno in catalessi. Ma oggi l'argomento non sarà uno di queste orientalate, ma sarà una cosa scientificissima. Mi sembra che parlavamo del rapporto tra Heisenberg e Planck, pertanto, Elisa, come porteremo avanti questa faccenda della fisica quantistica e della scienza che viene insidiata da queste Vanna Marchi da due soldi? Affronteremo un argomento che tanto scientifico oggi, insomma, diciamo è abbastanza scientifico. È Purtroppo non si quell'abbastanza che mi preoccupa. tratta di fisica quantistica, ma di quanto persone o animali che abbiano subito maltrattamenti generino della progenie con stati di stress cronico e di ansia generalizzata. Ma va, quindi staresti a sostenere che le colpe dei padri ricadono sui figli? Le colpe dei frati, purtroppo no, le colpe di chi ha colpito il padre in questo caso. Vabbè. E ricadono sui figli, sì. Allora, io ho avuto modo in passato di imbattermi in quella nuova branca della genetica che è l'epigenetica e che molto complessamente io non saprei riferire, ma brevemente, da incredulo e da ignorante, direi che effettivamente al momento del concepimento non trasmettiamo alla nuova vita i nostri soli caratteri genetici, ma anche tutta una serie di sovrastrutture epigenetiche, memetiche, secondo qualcuno, che poi ricompaiono nei figli, nella prole, nella progenie. Questo tuo studio sulle violenze subite o i traumi subiti dai genitori e poi trasmessi ai figli sotto un'altra forma è parte di questo meccanismo epigenetico? L'epigenetica sicuramente trasmette il nostro vissuto e i nostri traumi ai figli, ma in questo caso è qualcosa di un pochino più evoluto, no? Ah, sì. Perché se io mettessi al mondo, cioè io, mettiamo che io abbia subito delle violenze per l'epigenetica, metterei al mondo un figlio che con sé ha il trauma del maltrattamento, quindi magari ha paura a essere toccato fisicamente, a rapportarsi, mettiamo che sia una madre che ha subito violenza sessuale, a rapportarmi all'altro sesso, eccetera, eccetera. In questo caso, questo studio va ben oltre perché ha verificato che i figli non soffrono di, diciamo, un ricordo di essere stati maltrattati, ma di ansia generalizzata, quindi di sindrome di ansia generalizzata, disturbo di ansia generalizzata e di stress cronico, che quindi va un po' oltre, come se fossero sempre in stato di pericolo. Quindi era una faccenda seria la storia delle suore jugoslave violentate e messe incinta da soldati di qualcuna delle fazioni che combattevano quella guerra, e poi tutto il dibattito se farle abortire o meno. In questo caso, probabilmente, siccome la violenza è stata particolarmente feroce, quei bambini, se sono nati, beh, probabilmente avrebbero questi sintomi, questi problemi d'ansia e d'ansietà. Potrebbero assolutamente sviluppare disturbi di ansia generalizzata, sì. L'esperimento che è stato, diciamo, provato, come sempre, è stato ricondotto sui topi. Sappiamo che il DNA e comunque il sistema genetico dei topi è molto simile a quello umano, e praticamente è una cosa brutta da dirsi, però hanno abusato e picchiato questi poveri topolini che poi sono rimasti incinta e hanno generato topolini molto molto a disagio nel mondo, e soprattutto hanno visto che le donne, quindi le figlie femmine, avevano una propensione ad essere più ansiose rispetto ai figli maschi. Penso con i maschi, sì. E questo tipo di problema è un problema che il bambino si porta con sé fin dalla nascita. Eh sì, fin dalla nascita, fin dal concepimento, perché è da lì che comincia comunque a assorbire tanto della madre, assorbire il suo passato, e poi quando nasce comunque sarà magari un bambino molto molto con dei disturbi, tanti legati a paure, ansie, tutto quello che porta, quindi anche a disturbi fisici. La madre è cosciente del fatto che il bambino che è nato soffre in ragione del fatto che lei ha sofferto, oppure spesso questo tipo di ansia, ansietà è nascosto, latente, per cui ci se ne accorge solo dopo molti anni? Accorgersi che, diciamo, il bambino ha qualcosa, uno stato di allerta un po' fuori dal normale, ci se ne accorge subito, però spesso viene considerato, ma un bambino pauroso, un bambino timido, ha problemi magari a relazionarsi con gli altri bambini, può darsi che venga data la colpa ai genitori per una non corretta educazione o una non corretta socializzazione, quando in realtà questa cosa difficilmente la madre può riuscire a capire da che cosa dipenda. È una cosa abbastanza allucinante se ci si pensa, soprattutto se pensiamo che magari abusi o traumi si sono subiti magari da bambini e che si sono anche superati noi in qualche modo e siamo andati oltre. Quindi razionalmente uno non ci pensa che lo stato di disagio del figlio può essere dovuto a qualcosa che noi abbiamo fatto, ma ancora di più di abusi femminili se ne parla tanto, cioè si sa che succede, si sa che le donne vengono picchiate, violentate, ci sono i femminicidi, eccetera, eccetera, ma l'abuso maschile se ne sa tanto poco. Vero. I maschi difficilmente parlano di abusi subiti o di maltrattamenti subiti, perché comunque sia sarebbe come un abbassare le difese, no? Il dire che non sono un uomo così potente come voglio far credere di essere. Chiaro, chiarissimo. E la società ora li guarda, diciamo, in maniera ancora diversa. La donna si sa che è debole, l'uomo che ha subito delle violenze non è più quell'uomo forte, è comunque un debole, quindi tende a nasconderlo. anche atti di bullismo fatti verso i ragazzi, se ne sa molto meno rispetto a quelli fatti verso le bambine, perché i maschi tendono a non parlarne di questa cosa, e quindi lo stato ansioso potrebbe anche essere portato dal padre che ha nascosto a se stessa e a tutti gli altri questo suo stato di abuso. Quindi abusi e sevizie subiti anche da bambini, comunque al momento di generare un figlio si ripresentano in lui, se questo studio verrà confermato, se questa teoria sarà dichiarata legge scientifica, mettiamola così, influenzerebbero violenze antiche, influenzerebbero vite nuove. Esatto, esatto. È anche difficile da capire come curarlo. Quanto intensa ha da essere la violenza subita per trasmettere ai figli questo stato di ansia perpetua? Questo dipende tanto da quanto intensa la vive la persona. Le emozioni che noi proviamo in questo stato sono molto soggettive. Cioè, a me può generare un trauma profondo, tre schiaffi dati, che ne so, da mio padre quando ero bambina, e portarmeli dietro, perché comunque io non sono riuscita a elaborarli, per me non sono stati giusti, per me in quel momento non avevo fatto niente di male, per cui rimane lì, e che quindi può creare una persona con un'ansia. Chiaro, più i livelli di abusi e maltrattamenti salgono, più le emozioni sono forti e più siamo propensi a generare bambini con uno stato di malessere emotivo. Incredibile! Quindi più che curare i figli ci sarebbe da curare i genitori? Sì, ma come? Coi fiori? Te come faresti, Elisa, se qualcuno si presentasse da te dicendoti: ho impressione che mio figlio abbia questi problemi perché io da bambino ho vissuto queste storie. Tu come ti orienteresti? È difficile che una persona alla prima seduta ti parli di un abuso. Chiaro. Se è così, diciamo, avanti in un percorso tale da potersi aprire, è chiaro che cercherei di lavorare su lei, su togliere questi traumi e far sì che vengano proprio cancellati. Bisognerebbe agire, indipendentemente dal fatto che se ne voglia parlare o meno, sulla creatura che sta per nascere. Quindi ci sono tanti fiori che fanno sì che già in pancia o appena nati tanti condizionamenti a livello familiare non vengano trasmessi. Pensate. Quindi chi non ne vuole parlare, ma sa che qualcosa che ha avuto e che ha subito è stato lì e gli ha creato una grossa cicatrice emotiva, dovrebbe, quando decide di dare vita a un nuovo bambino, a una nuova vita, a una nuova generazione, pensare che lui non si porti dietro tutto quello che lei ha vissuto e che anche che lei ha vissuto per colpa degli avi, no? Perché come noi trasmettiamo alle generazioni future, noi abbiamo ricevuto un bagaglio di, come dice l'epigenetica, di traumi non risolti dei nostri avi. Quindi andrebbe proprio deciso che questa vita è nuova, è una tabula rasa, e di quello che siamo noi, la mia famiglia e la famiglia del padre e di tutti i nostri avi, non ci dobbiamo portare niente dietro. Niente a livello di traumi, naturalmente, di condizionamenti. Quelle che chiamano le costellazioni familiari, Elisa, dunque in qualche modo esistono e effettivamente influenzano la nostra vita. Sì, sì, sì. Esistono anche proprio dei lavori che si fanno, no, per lavorare su questi condizionamenti, appunto le costellazioni familiari. Sono un evento, diciamo, che una persona deve affrontare preparato, perché non sono assolutamente una passeggiata di salute, è un'esperienza bellissima, ma non una passeggiata di salute. Diversamente, i fiori, come sai, lavorano sempre sul lato positivo, quindi difficilmente a un bambino appena nato o a te che comunque decidi che già in età adulta questi condizionamenti non ne vuoi più sapere, ti ripulisci, e è sicuramente una cosa che te non saprai mai a che cosa è legato quel trauma, cosa invece diversa dalle costellazioni, perché viene fuori il motivo, però ti senti più leggero. Noi in Italia per tradizione diamo alla famiglia un significato simbolico, e non solo simbolico, di altissimo livello, tant'è che la storia del nostro paese è costellata di storie familiari di tutti i tipi. Una tra le tante, la storia dei Montecchi e Capuleti, che Shakespeare mette in scena a Verona, ma che in realtà è proprio una faida fiorentina. A Firenze le famiglie si sono ammazzate fino all'altro ieri, però la famiglia, il clan che ci protegge, non dimentichiamoci che la parola famiglia viene dal latino famila, che è il circolo degli schiavi, quindi vieni, vieni piccolino, vieni all'amore di mamma e papà. Mamma mia, e in realtà poi dietro a questa apparente allegria familiare si nascondono un sacco di insidie, un sacco di trappole. Esatto, sì. Per quanto la famiglia è una bella cosa, nel senso che siamo quello che siamo grazie ai genitori, ai nonni, però spesso condizionano un po' troppo il nostro modo di vivere e il nostro modo di ragionare, soprattutto da bambini entrano a far parte di noi dinamiche che spesso non ci appartengono e non ci dovrebbero mai appartenere. Secondo certe scuole rabbiniche, il momento del concepimento è il clou per quello che riguarda l'atto creativo, almeno sul piano fisico, e sostengono di stare molto attenti a quello che si pensa durante la copula, perché al momento in cui lo spermatozoo incontra l'ovulo femminile si trasmette alla nuova vita che nascerà l'anima corrispondente ai pensieri dei genitori durante la fecondazione. Ossia, se quello pensa ai film di Will Smith e vede scoppiare due o tre macchine e sparare a due o tre banditi, c'è il caso che gli venga fuori un figlio delinquente. Banalizzo, la faccenda è molto seria, Elisa ha aperto un vaso di Pandora, però la ringraziamo perché a me, come a tanti altri, probabilmente ora starà bruciando dentro uno di quei fuochi egoici molto difficili da spengere. Grazie Elisa. Grazie a te Giorgio e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Spero che riusciate a prendere coscienza di quanto noi e le nostre emozioni siano importanti, non solo per noi, ma anche per tutto il mondo che ci circonda. Elisa, ma una volta, ma parliamo di Heisenberg, su, parli il teorema di Guldino, dacci qualcosa di matematico. Ringraziamo Elisa, stiamo scherzando ovviamente, Elisa ci apre delle finestre su mondi sconosciuti e ci auguriamo che continui a aprirci queste visioni su mondi che altrimenti sarebbero a noi preclusi. Grazie agli ascoltatori di Radio Big World, grazie a Radio Big World. Olè.